Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Hosanna forever we worship. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci in diretta qui a Blu Radio Veneto con Agostino Spalaore e con Maurizio Calzavara questa sera per una lunga serata dall'insegna della musica all'insegna delle chiacchiere, anche perché no, ma all'insegna soprattutto della bella ed emozionante musica, soprattutto quella locale. Buonasera Maurizio intanto. Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ascoltatori, buonasera ad Agostino. Abbiamo annunciato questa serata di stasera come maratona musicale. Maratona. Partiamo dalle 9:05 e arriviamo fino a mezzanotte. Buonasera Walter. Buonasera a tutti voi. Fresco quarantenne. Auguri da parte grazie, di tutti noi. Grazie. Dunque, Walter Ferrulli chi è? Musicalmente uno che nasce al pianoforte, cioè hai cominci a suonare al pianoforte da giovanissimo praticamente. Sei toscano, però sono trapiantato a Padova da un sacco di tempo. Sì, ho cominciato a 5 anni, invece di fare il normale percorso che fanno tutti, quindi cominci a 5 anni, cominci a studiare la musica prevalentemente classica, nella maniera tradizionale, vai dal tuo insegnante privato. Io in realtà già a 5 anni avevo poca voglia di fare, per cui l'insegnante di musica da cui mia mamma mi aveva portato ha detto: signora, questo ragazzo lo faccia divertire con la musica, non lo faccia studiare, perché non è proprio portato per lo studio, lo faccia divertire. Mia madre ci è rimasta un po' male e io in realtà non avevo assolutamente capito cosa volesse dire tutto questo. L'ho capito attorno ai 20 anni cosa volesse dire giocare con la musica. Quindi 21 anni proprio esattamente. Bravo, vedi, la sai meglio di me la storia. A 21 anni ho scoperto che si poteva, non dico giocare perché forse è un termine che non è proprio preciso, però diciamo si poteva vivere la musica in maniera totale, con il corpo, con la mente, col cuore, senza necessariamente essere così tecnicamente preparati. E quindi ho scoperto questo nuovo mondo musicale che sin da allora era già quello dei Summertime, perché la metà della mia vita musicale l'ho passata all'interno di questo gruppo, cui devo praticamente tutto a livello artistico, e ho cominciato davvero a divertirmi. Sì, perché tu ti sei specializzato nell'arrangiamento strumentale e vocale, e quindi il collegamento con il Summertime è evidente. Sì, cioè io ho imparato da chi mi ha preceduto, devo dire la verità. Antonio Micheli, che è il fondatore di questo gruppo, 20 anni fa, prima ne parlavamo, questo è il ventennio dei Summertime, poi magari più tardi. E questo ci fa molto onore, Walter, che tu sei qui ad annunciare questa... Ringrazio voi che mi permettete di farlo, perché poi magari verso la fine di questa chiacchierata vi spiegherò di quello che andremo a fare, insomma, certo, come festeggeremo, certo, questo anno così particolare per noi. Invitami, mi raccomando. Assolutamente sì. E dicevo, Antonio Micheli fonda questo coro. All'inizio si tratta di un ottetto vocale, mi pare, però qui comincio anch'io a dimenticare un po' le cose, sono passati 20 anni. Si chiamassero Tosi e Tose, erano proprio dei ragazzi della parrocchia di Santa Rita che si erano trovati una sera e avevano detto: facciamo un gruppo vocale, cantiamo delle canzoni che non erano necessariamente spiritual, se non ricordo male. Poi dopo poco il passaggio è stato molto rapido, sono diventati un coro di 20 elementi e nel giro di qualche mese Antonio è riuscito a costruire un repertorio assolutamente credibile, che poi nel corso degli anni si è sviluppato in maniera molto importante. Io sono entrato e ho guardato, perché oltre a essermi veramente divertito cantando, io ho fatto quella che potrebbe rappresentare proprio una piccola carriera, no? Non so, no? Sono passato dall'essere un... Beh, tu sei anche un bravissimo pianista comunque. Grazie, mi invento anche in questo. Mi invento come pianista, cerco di arrangiarmi. E ho provato a fare un po' di tutto all'interno di questo gruppo. Quindi guardando chi mi ha preceduto, Antonio Micheli e poi Marta Bevilacqua, che è stata la seconda direttrice del coro, ho imparato da loro come si faceva il mestiere, un po' come fanno gli artigiani, si impara. Una cosa da sottolineare è che in Italia non hanno mai attecchito, cioè non si sono mai sviluppati l'idea dei gruppi vocali. Sempre tanta difficoltà. Ci sono stati Neri per Caso, ecco, quelli più famosi. Non prettamente su questo genere, però genere pop a 360 gradi. Ma in Italia è difficile, non trova tanto spazio. Che ragione c'è secondo te? Per qual motivo c'è questo poco spazio per i gruppi essenzialmente vocali? Mentre negli Stati Uniti parlare di Manhattan Transfer e parlare di tutto praticamente. Certo, penso che sia semplicemente una questione di educazione culturale, perché non c'è altra ragione. Abbiamo una tradizione così imponente noi di musica colta che non posso che rispondere così. Probabilmente ci siamo dimenticati di insegnare a chi ascolta la musica che ascoltare la musica non è solamente un restare in superficie, a volte è anche cercare di pensare, di studiare, E quindi un gruppo vocale oggi fa fatica a imporsi perché la gente preferisce un ascolto estremamente semplice e facile, quindi bada solamente a risentire qualcosa di già ampiamente ascoltato. E quindi le famose battute che circolano oggi, per cui tu vai a fare un concerto magari presentando un brano nuovo in un inedito, hai fatto una fatica incredibile per registrarlo, tu fai ascoltare la tua musica, poi dal fondo della sala arriva uno e dice: ma Vasco Rossi quando lo fai? Esatto, è quello il discorso. Peccato, nel senso che Vasco Rossi mi piace pure, quindi io capisco la differenza di levatura tra un artista e l'altro, però capisco anche che a quel punto non hai veramente voglia di provare a metterti in gioco e dire: adesso io ascolto questo nuovo artista, questo ragazzo giovane, gli do fiducia, riascolto il suo disco 3-4 volte e vediamo se poi magari mi piace più di Vasco Rossi. E i Summer Time si sono messi in gioco cominciando da parlare con Godspell, cioè parlare di Dio, hanno sviluppato il discorso, hanno ampliato, grazie a te, che poi sei diventato il direttore artistico, hai dato degli indirizzi, e gli indirizzi che partono al pop, al soul. Prima di direttore artistico ha fatto una produzione del disco Say Will, Walter. Sì, 90, è stata la mia arma vincente, il mio apprendistato. Da lì, guarda, poi sei diventato. Quello è stato il vero apprendistato, perché mi sono chiuso in una sala di recitazione con degli amici veri e propri. Un'esperienza importante, sono andato a Città di Castello con una produzione, erano i produttori di Frank A. Energy, un mondo Totalmente lontano dal nostro, certo. Però si erano anche loro così divertiti a entrare in un mondo contaminato, diciamo, e io mi sono lasciato ovviamente contaminare da loro. Ho imparato moltissimo in sala, per ciò che poteva essere anche mixare, non solo quindi arrangiare i brani, ma anche pensare al gradino successivo, come mixare, come masterizzare un disco. Ed è stata un'esperienza che non dimentico. Abbiamo passato le notti a scrivere musica, a scrivere arrangiamenti, a suonare, a far finta di essere veramente dei musicisti. Quindi ho passato un bel mese della mia vita a fare il mio bel apprendistato che non dimenticherò. Quindi mai. Hai imparato a fare il producer, il produttore praticamente, a 360 gradi. Nel mio piccolo, nel tuo piccolo. Direi di sì. È stato il modo per aprirmi a questa nuova esperienza, e l'ho poi portata ai ragazzi che da quel momento hanno cominciato ad essere parte del nuovo coro, perché poi alla fine non so quanti Summer Time, quanti ragazzi siano passati all'interno di questo gruppo, ne abbiamo contati circa 200, quindi possiamo veramente dire che sì, nel corso dei 20 anni abbiamo avuto 20 cori diversi, 20 voci diverse di coro, ed è stata un'evoluzione sempre molto graduale, cioè chi è arrivato non ha mai perso ciò che era l'esperienza di chi era appena andato via. Chiaramente. Con cosa cominciamo per far sentire la voce di Summer Time? Chiaramente col CD, perché non ci sono qua. Idealmente sono tutti qua. Guarda, siccome la storia dei Summer Time è lunga, è fatta da alcuni momenti veramente così importanti di svolta a livello di esecuzione artistica. Quell'album lì dove c'è il Say You Will è eccezionale, a parte che c'è lo zampino tuo, però voglio dire, da lì c'è stata veramente anche la svolta a livello anche conoscimento dei Summer Time. Sì, abbiamo cominciato a fare quei concerti in cui è entrata a far parte della grande famiglia un'orchestra d'archi, un'orchestra di fiati, sono entrati i Mighty Power con Etienne per le coreografie, quindi diciamo che lo spettacolo semplice è diventato un vero e proprio show. E io farei ascoltare un brano che tra l'altro è un brano originale, un brano che ho scritto io un po' di tempo fa, e con cui abbiamo cominciato il primo di questa serie di concerti natalizi al Teatro Verdi di Padova. Non ricordo più l'anno, forse era il 99? 2000? Guarda, facciamo che non ce lo ricordiamo, diciamo che la storia è lunga, però ricordiamo semplicemente il momento. Questo sì era un momento di svolta artistica. Da questo momento i Summer Time sono diventati da una grande famiglia a una famiglia veramente allargata, con un tentativo di proporre qualcosa di veramente nuovo. Okay. Ecco, il brano si intitola Music is Taking Over. Listen to, look at, and dream about. This is not just a concert. This is a little journey down a pathway of light, which is always and only energy. So let us repeat our welcome to you. Brothers and sisters, thank you for placing yourself in our hands. Have a good journey. Come on in. Allora, abbiamo sentito questo pezzo, Walter. Possiamo dare una chiave di lettura? Una chiave di lettura soul a questo pezzo, sei d'accordo? Tu avevi detto a microfono spenti che cantava un ragazzo di colore inglese, che poi sì, se n'è andato dalla band. Sì. Cioè, è stato momentaneamente qualche mese da voi. Sì, sì, sì. È stato un po' un inizio di un'apertura verso un genere musicale sicuramente più popolare. Certo. Io dico che si tratta di una svolta pop. Chi ci vuol fare una facile battuta dice che si tratta di pop spell, e così è stato sì, chiamato un po' da tutti quelli che poi si sono aperti a questo nuovo genere, che ha delle, così, un modo di essere vissuto sicuramente gospel, però insomma le melodie, le armonie, il modo di arrangiare questo brano sicuramente non è tipicamente gospel, ma è un po' quello che abbiamo cercato di fare sin dall'inizio, ma proprio sin dalle origini. Lo stesso Antonio, quando aveva cominciato con questa esperienza, non si era mai chiuso nell'ambito del gospel puro, e per probabilmente gusto musicale, ma anche perché riconosciamo semplicemente che per noi è impossibile rappresentare ciò che non abbiamo mai vissuto. Certo, quindi certo, noi possiamo studiare, sentire, ascoltare ciò che non è stato da noi vissuto, che viene da molto lontano, lo interpretiamo e lo suoniamo alla nostra maniera. Quindi questo era un po' un modo per dire: adesso i Summertime cominciano a reinterpretare le cose, a produrre dei brani propri e quindi a vivere la musica in modo assolutamente autonomo. E questo è stato anche un percorso coraggioso, sicuramente, con tre R possiamo dire, cioè, questa apertura, partire dal gospel e sviluppare un discorso poi allargandolo, non è semplice. No, non è stato semplice, perché comunque proporre il classico concerto gospel era assolutamente più facile per tutti, lo è sempre stato in Italia, soprattutto a Natale il concerto, sì, era il concerto gospel. Esatto. Noi non volevamo chiuderci in un periodo dell'anno, quindi non volevamo rappresentare questo, volevamo fare una musica per tutti i giorni dell'anno, e quindi ho capito che portare Oh Happy Day nei vari teatri a marzo è il tuo incubo, quella canzone. Insomma, sì, è l'incubo, vedi che mi torna. Sì, me lo ricordo tutte le volte. Un giorno farò dell'analisi da uno psichiatra per farmi passare. E insomma, portare questi brani nei periodi dell'anno in cui ovviamente sembrano quasi fuori luogo, non mi sembrava il modo migliore per propormi in maniera originale, e quindi ho detto: ragazzi, noi rischiamo, ci proviamo, vediamo che succede. Sì, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Inghilterra, c'è la tradizione del disco natalizio. Tutti i cantanti rock, e non solo rock, recentemente l'ha fatto Bob Dylan. Qualcuno ha detto che non è proprio bellissimo, qualcuno ha detto che è bellissimo. Cioè, molti cantanti rock, molti artisti di valore che non hanno mai fatto gospel, fanno un disco natalizio. In Italia non c'è questa tradizione, l'ha fatta Irene Grandi, ma era un disco pop, non era un disco di Natale, era totalmente un disco pop. E quindi giustamente lasciare perdere il periodo dell'anno dedicato al Natale, cioè dicembre, e portare avanti un discorso per tutto l'anno, non doveva allontanarsi necessariamente dal gospel. Questo è il disco, questo, certo, è l'analisi, è il quadro di lettura. E certo, così è stato praticamente. Sì. E tu che impulso hai dato a questo? Allora, diciamo che ho scommesso un po' tutto me stesso in questo progetto, perché all'inizio ci ho giocato molto col pubblico, quando arrivavamo lì a Natale, per esempio, perché lì c'era il paradosso. Sei un ruffiano quando fai. Ho imparato un po' a leggere le facce del pubblico, quindi so quando posso esagerare. Sei bravissimo. Allora, comunque ti ringrazio. Prego. No, semplicemente sai cosa? Il palco, scusami se apro questa parentesi, poi torniamo al discorso. Sul palco riesco ad essere finalmente libero. Sì, ciò che non riesco a fare nella vita, incredibile. Riesco. Quindi sul palco mi vergogno meno. È bello, sai, vederti, perché ti senti veramente a tuo agio. Anche quella volta che avevi male al ginocchio, ti ricordi? Sì, ti sei seduto lì tranquillamente, hai cominciato a parlare, a presentare, loro cantavano. È stata veramente una bella sensazione vederti in quella maniera così semplice, perché poi è naturale, insomma, non c'è niente, sei una persona normalissima, insomma, voglio dire. Cioè, assolutamente sì, perché poi se ti comporti così, il pubblico automaticamente è al tuo stesso livello, quindi certo, capisce che la cosa è informale, insomma, che c'è un'atmosfera familiare. Essere. Dietro di me ho una band e un coro che mi supportano, perché anche nel momento in cui non cantano, ma sono lì, sono la vera forza, no? Sul palco, quindi io assorbo un po' quello che ho lì che mi sostiene, quindi lo traduco in parole, in gesti. Poi tu hai anche scelto delle persone che fanno parte del coro che sono molto allegre, molto vivaci. Sì, hanno tutte ad esempio, io ne cito qualcuna ma non me ne vogliono le altre, sì, tipo la Alice, oppure sì, la Chiara, oppure sì, Marco Mengato, insomma sono personaggi che sono la stessa Antonella, sì, quando avete suonato la guizza lì con quell'abbigliamento da anni 70, sì, è stato veramente, sono delle cose piacevoli che fanno veramente molto molto sorridere. Hanno tutti una personalità molto, certo, molto spiccata, e sono bravissimi comunque. E sul palco questa cosa porta un grandissimo vantaggio, perché porta una grande allegria, una grande energia. Non ti dico invece alle prove che cosa comporta tutto questo, però questo, i panni sporchi li abbiamo in casa. E gli spogliatoi come le scuole di calcio. Esatto. Allora, esatto, parlando del discorso di allargare gli orizzonti. Sì, nel momento in cui ci proponiamo a un pubblico e diciamo al pubblico: provate ad ascoltare la musica di questo concerto in modo diverso, e quindi non fermatevi semplicemente a dire ma questo non era gospel, ma io volevo sentire When the Saints, ma provate a vedere se magari ignorando questo pensiero e quindi questa aspettativa riuscite lo stesso a vivere un'emozione così forte. E non è stato difficile, devo dire la verità, perché poi alla fine il pubblico si rende conto che c'è ben altro al di là di questi due brani che prendo come così un esempio, un po' sì, rappresentativi, certo. Per carità, ci scherzo molto in concerto, non certamente non li odio, semplicemente il fatto di chiudersi in questo anfratto non credo che sia una bella cosa per un artista. E quindi ho detto, per esempio, un Total Praise, voi sapete, lo dico al pubblico, che negli Stati Uniti a Natale il brano che si ama cantare non è Oh Happy Day ma è Total Praise. Allora, se dall'altra parte del mondo dove questa musica è nata o comunque si è sviluppata fanno qualcos'altro, vediamo un po' che cosa significa. E la risposta è stata eccezionale, è stata positiva al 100%. Sì, non ci sono state delle resistenze fra di voi a portare, andare su un percorso sconosciuto, rischioso, no? C'è stato forse qualche singolo elemento che si è posto il dubbio, ma devo dire, ma al di là di porre il dubbio, sì, poi dopo si è assolutamente buttato all'interno del progetto. Voi sapete, se seguite poi i nostri concerti, che quello che è partito qualche anno fa, e noi lo chiamiamo il treno dell'energia, ed è realmente ciò che raffigura questo gruppo e la sua storia. Questo è davvero un treno che è continuamente in corsa, e le persone che salgono su questo treno sono persone che portano e ricevono energia, e quando si stancano possono tranquillamente scendere. Quindi gruppo aperto. È un gruppo assolutamente aperto, e nel momento in cui facciamo il concerto diventa aperto al pubblico. Certo, certo. E quindi sale sul nostro treno nel momento in cui si libera da qualche piccola inibizione, perché di solito sono piccole cose che impediscono allo spettatore di alzarsi in piedi e ballare. Una volta che io lo libero da questa piccola... questo piccolo ingombro emotivo, allora sale veramente con qualcosa sul dei Queen. Ah, per esempio, sì. Sì, sì, ci sono dei brani che devo dire, una volta fanno che scattare in piedi. Ecco, esatto, te lo stavo dicendo. C'è una volta che ci fai godere lo spettacolo seduti. Guarda che può essere che riusciamo a studiare un concerto acustico un pochino più. Sì, ci stiamo pensando, vediamo se riusciamo a fare una cosa per poche persone, 150-200 persone, da ripetere qualche per magari per una settimana intera, ma un concerto acustico dove vedrai che non farò alzare in piedi. Facciamo un concerto d'ascolto. Ascoltiamo. Sì, cosa sentiamo adesso? Cosa hai Guarda, scelto? Ti chiederei di far ascoltare un altro brano che ha un'importanza, così, come dire, forse uso il termine troppo grosso, comunque epocale per il gruppo stesso. Si intitola Say You Will, è importante perché è rappresentativo di una tappa bellissima, il nostro Natale in Vaticano, una delle nostre interpretazioni. Questa è stata la più emozionante perché il brano è nostro, perché è stato scritto da poi te, la musica. Sì, questo l'ho scritto io, e il testo è di Fabrizio Ferrari, un mio carissimo amico di Milano, ed è stato poi arrangiato da Daniele Di Gregorio per l'orchestra, ma poi risuonato all'orchestra di Renato Serio. E vi giuro che salire sul palco e leggere sugli spartiti degli orchestrali in Aula Nervi Say You Will è stato veramente un'emozione. Ok. Father, we so glad to be in your spirit, and tonight we want to dedicate this prayer to all your people, to let them know how much you love them, how much you care. Lord Jesus, we just want to stop for a while to say, we want to say we love you, but we really need you this time. Time goes by and it's passing over me. Tell me why people crying in the street, light in my eyes, show me how to fly. I wish you'd come over, say you just can't be blind. When the word comes to my heart,

qui abbiamo altri tre componenti dei Summertime. Ah, cioè quelli che suonano adesso con Luca suonano anche con i Summertime. Perfetto, quindi c'è un connubio totale, perché abbiamo Alessandro Piovan che è il batterista, abbiamo Francesco Piovan che è il bassista, abbiamo Paolo Videce che è il nostro percussionista storico. Eccolo qua che, che gira. E poi abbiamo Luca Francioso, con cui abbiamo anche condiviso dei, non dei palcoscenici, ma diciamo degli altari di chiesa. Sì, perché abbiamo suonato in due o tre concerti in chiesa insieme, quindi è stata una bella, bella, emozionante esperienza. Quindi hai parlato dell'emozione della Sala Nervi, hai parlato dell'emozione essere diretto, cioè la tua musica è stata diretta dal maestro Serio, che ha arrangiato tutti i dischi, tanti dischi di Renato Zero, tra parentesi. Sì, sì. Insomma, io ricordo che il momento più emozionante è stato quello delle prove generali, perché quelle me le sono godute dalla platea, quindi io mi sono seduto ad ascoltare questa cosa che sapevo che avevamo scritto noi, e l'ho ascoltata come uno spettatore privilegiato dalla prima fila, e lì io mi sono detto, beh, insomma, ne è valsa la pena. Certamente. Ne è valsa la pena. Anche come l'acustica meravigliosa che c'è. In Aula Nervi è tutto eccezionale. È tutto eccezionale. Peccato che quel concerto non si faccia più. Capisco le ragioni, perché effettivamente. Sì, non si fa più, sì. Però insomma, sarebbe bello se si inventasse qualcos'altro di una caratura simile, perché poi le cose che hanno fatto successivamente non sono state di quel livello. Sì, esattamente. Sono un po' calate. Sì, un po' calate. Fino quasi a scomparire, perché mi pare che adesso trasmettano le repliche dei Natali in Vaticano di qualche anno fa. Sì, recentemente l'ultimo che hanno fatto non era una replica, è una cosa fatta un mese prima. Chiaramente il 24 dicembre si trasmette il concerto, però il concerto viene registrato un mese prima, perché i musicisti stranieri, eccetera, che vengono non sempre hanno la possibilità di arrivare la vigilia di Natale a Roma, quindi fanno una registrazione live praticamente, perché il concerto da Dio è registrato un mese prima, tutto là. E adesso è passata da Mediaset, c'è stato un ballo tra Mediaset e Rai. Esatto. Sono ritornati alla Rai, però indipendentemente da questo era un bel avvenimento, perché tanti musicisti, anche musicisti di classifica, erano invitati dal Vaticano e hanno cantato e hanno suonato. Ci sono state anche delle discussioni, qualcuno è stata esclusa perché ha fatto delle cose che non doveva fare, o si è presentata in una maniera non decorosa. C'eravamo quando Lauryn Hill ha fatto la sua arringa nei confronti della curia. C'era qualche cosa, capita, succede, però l'idea era molto interessante e per tanti anni è stata portata avanti. Ok, questo è l'aspetto della sala del Vaticano, la Sala Nervi in Vaticano. E gli altri aspetti dei Summertime, come sono? Come si sviluppano? Questo è l'aspetto di quel pezzo dedicato al gospel natalizio o presunto tale, ma poi come è andato il discorso? Poi abbiamo cercato di progredire con lo spettacolo che aveva trasformato il normale concerto in uno show. Abbiamo cercato di perfezionarlo, abbiamo cercato ogni volta che finivamo la nostra stagione natalizia, diciamo, che raggiungeva come sempre il culmine in quel periodo a livello artistico, abbiamo cercato di capire se avevamo raggiunto il nostro limite possibile o se l'anno successivo ci saremmo potuti sbizzarrire in qualcosa di nuovo, perché comunque non lo dimentichiamo, Summertime sono fondamentalmente un gruppo di dilettanti, ma nella maniera, cioè intendendo questo termine nella maniera più bella, cioè noi abbiamo una band di professionisti, abbiamo alcuni dei cantanti che vivono in parte anche di questo mestiere, però fondamentalmente restiamo un gruppo di dilettanti che cercano più che essere professionisti di essere professionali, ed è bello cercare di capire dove troveremo il nostro limite effettivo, quando potremo dire più di così non possiamo fare, e finché io sentirò che più di così si può fare, avrò sempre uno stimolo da dare anche ai ragazzi e dire guardate che noi siamo arrivati fin qui, ma possiamo arrivare anche fin qui. Poi questo è uno degli obiettivi, perché in realtà se quando ci si trova a prova e non ci si diverte, questo giochino non funziona, può funzionare per un piccolo periodo, ma i Summertime devono restare effettivamente un gruppo di amici che si trova per condividere una passione comune. Se manca questo, il nostro castello di carte rischia di crollare. E fino adesso, per fortuna, tu hai ripetuto un concetto molto importante: non professionisti ma professionali. Quello è fondamentale. Certo, perché per esempio le esperienze che abbiamo fatto con Natale in Vaticano, piuttosto che concerto a Monte Carlo, a Verona, ci hanno fatto capire che essere bravi, ovviamente dico una banalità, non vuol dire essere necessariamente persone che vivono di questo mestiere. Certo. Essere professionali invece significa necessariamente essere preparati bene. E quando abbiamo visto che noi eravamo preparati molto meglio di persone che di questo mestiere vivono da 40 anni e sono anche molto famosi, abbiamo capito che il nostro obiettivo doveva essere quello e non altro. Quindi noi dobbiamo divertirci, cantare, pregare per chi intende la musica magari più fortemente in questo senso, ma soprattutto dimostrare a chi ci sta davanti che ha fatto bene a comprare il biglietto e a venire lì a condividere. Ecco, questo è importante. Questo lo posso confermare, che io sono sempre stato dalla parte di qua, non dalla parte vostra, e per me è un onore, dicevo prima, averti qui, proprio perché trasmettete, proprio a cominciare da te, tanta, veramente tantissima emozione. Io mi estraneo quando vengo lì, cioè ci siete solo voi, la vostra musica e grazie, tutto il mondo. Agostino, mi piace da matti essere qui veramente con te a dialogare, perché oppure sei anche un carissimo amico. Ti ricordi quando ci siamo conosciuti? Mi ricordo, sì, ma tu lo sai che sei stato... Tu ormai sei il, tra virgolette, posso dire un fan? Sì, mi sì, posso sì, freggiare sì, di questo? Certo che sì. Allora, ti ho visto lì tra il pubblico essere un fan vero ed essere la persona più riconoscibile. Perché ormai tutti parlano di te, cioè sì, ti conoscono tutti. Addirittura, sì. Ma te lo assicuro, Agostino è il nostro primo fan. Fan. Ho anche l'onore di avere una mia lettera scritta a voi pubblicata. Certo, da quel momento in poi che è nata la storia. Io e te ci siamo perché quando l'abbiamo letta ci siamo detti: ma chi è? Chi perché è non qua? Avevamo veramente individuata la persona, ormai sei una star. Figurati. Ci siamo conosciuti in un negozio io e te, comunque, ti ricordi? Proprio personalmente, no. Caro Agostino, l'età in calza, ormai sai che sono 40, sugli 40, il primo momento, 40. Non me lo ricordo. Comunque. Ok, 21:46. L'altro pezzo, Walter, che hai scelto? Altro pezzo che mi ricorda tantissime cose. Wait for a Light, aspettando la luce. Mi ricorda i primi momenti in cui abbiamo cominciato a contaminare un genere. Ecco, che... contaminare, hai detto sì. Giusto, hai proprio definito la cosa che mi interessava sapere. La contaminazione. Buona, non la contaminazione. Buona. In musica la contaminazione è sempre una cosa buona. Il primo momento in cui abbiamo detto... se effettivamente il gospel e lo spiritual sono un po' madre di tutti i generi musicali successivi, vediamo un po' se i figli, appunto, che sono nati immediatamente da questo genere, li possiamo cullare, li possiamo far crescere. Quindi quando abbiamo cominciato a sentire e conoscere il mondo dell'hip hop, mi sono chiesto se non fosse possibile anche per noi interpretare qualche brano in questo senso, e quindi prendere così quello che è nelle Americhe si chiama il preacher, no? Quello che conduce comunque le cerimonie, il master of celebration, e vedere di anche qui reinterpretare a modo nostro, di provare a scrivere un brano che contenga qualcosa che ricordi comunque tutto questo. E in Wait for a Light abbiamo trovato il nostro, quella che poi in concerto è sempre la partenza del nostro treno, la chiave di volta praticamente. Assolutamente. Ok, adesso la sentiamo e poi ne parliamo ancora. Brothers and sisters, this is not just a concert. It's a little journey down a pathway of light, which is always and only energy. So let us repeat our welcome to you, brothers and sisters. Thank you for placing yourselves in our hands. Let yourselves have a good journey. We'll be right back. Yes, summertime is back. When you know the funky beat to your trouble step. I am a DJ, I'm doing it again. Making sure you know who's number one in England. Well, I'm on the mic right now. Check it, everybody, party people. Just watching me as I rock out to MIC. I'm a DJ, rock is deliciously. Keep going to it, keep going. I never ever do it, but I am knowing. Rocking on to the break of dawn. Don't you know that I'm a killer, get comfy, going like me. No, no, non ti sei, no, sei ancora in piedi, sì. Sì. Ti hanno visto, ti hanno visto che ti hanno visto con le telecamere, è tutto dal vivo, tutto in diretta. Stiamo preparando il concerto, ma parliamo con Walter. C'è una divagazione, c'è un'interruzione da fare, c'è una persona in linea che fa parte dello staff del mondo dei Summertime. Lei ha una sezione un po' più piccola, eh? Ciao Elena. Sì. Ciao. Ciao Elena. Visto che sono riuscito a beccarti lo stesso. Eh sì, no, se l'hai fatta. Beh, perché sono curiosi qua. E allora io ho detto, sentite, chiamatela. Perché non ti ho disturbato, so che sei al mare, Elena, ti ho disturbato? No, nessun disturbo, ci mancherebbe, anzi un piacere. Ci parli del tuo gruppo? Sì, volentieri. Allora, per chi non ci conosce, i Summertime Kids and Project sono un coro di bambini e ragazzi. In realtà sono due gruppi che poi io ho deciso di unire in un unico gruppo, quindi in un'unica grande voce, ma all'interno ci sono bambini dai 7 ai 13 anni, 14 anni, e poi un gruppo di ragazze dai 14 ai 17. Quindi lavoriamo separatamente, ma alla fine nelle esibizioni siamo sempre tutti insieme, per questo è un gruppo molto numeroso di circa 50 bambini e ragazze. E come repertorio spaziamo un po' nel genere sia traditional gospel, riprendendo un po' la tradizione Summertime, però l'abbiamo ampliato facendo e proponendo brani anche tratti da film, quindi colonne sonore molto famose di film e cartoni animati. E questo, insomma, un po' in linea generale. Poi non so se c'è qualcosa in particolare che volevate sapere. Vediamo se Maurizio è curioso. Hai detto una cosa giusta, cioè praticamente fai il gospel, cioè brani tradizionali, colonne sonore di film, ma che film? Film per ragazzi o uno solo per i ragazzi? Ma allora abbiamo fatto qualcosa tratto da Sister Act, quindi ecco, sicuramente quindi, piace sì. Ai ragazzi, ma è conosciuto anche certo. Ai grandi, oppure il film I Coristi, oppure vediamo un po'... adesso non mi viene in mente, ma molte colonne sonore di cartoni animati della Walt Disney. Che partecipazione c'è quei ragazzi? Cosa sentono i ragazzi? Si divertono? Si divertono, ecco, principalmente vengono perché si divertono E poi perché comunque sono anche molto orgogliosi, devo dire, di cantare per un nome che a Padova è molto conosciuto, quindi sì, ecco, con orgoglio salgono sul palco, sono sempre emozionatissimi, soprattutto sia quando devono cantare da soli, perché sentono una grande responsabilità nel dover tenere in piedi un concerto intero, quindi parliamo di più di un'ora di spettacolo. Però devo dire che il momento più gioioso per loro è quando poi dopo assieme a noi cantano i grandi, cantiamo noi, e lì proprio per loro la festa più grande in assoluto. Posso fare una domanda all'intervistatore? C'è l'attaccamento alla maglia? Assolutamente sì. Ah, mi raccomando. C'è un grande, grande orgoglio. Cioè loro vanno a scuola e dicono sì, anch'io canto in un coro, perché insomma spesso i bambini cantano in cori di voci bianche o giovanili, dicono però io canto con i Summer. Sai Maurizio perché ho fatto questa domanda? Sì. Perché per tanti anni, quando mi è stato chiesto cosa fai nella vita, e purtroppo la prima risposta non era faccio l'avvocato, ma sono dei Summertime. Allora poi, e poi faccio l'avvocato. Non era molto normale come risposta, me ne rendevo conto dopo. Però quando ho capito che c'era questo meccanismo, ho capito che c'era qualcosa di grande a quel punto, certo, dietro, certo, questa esperienza. E quindi chiedevo a Elena se anche i ragazzi già adesso cominciano a... Un marchio di fabbrica, positivo. Sì, un po' sì, un po' questo. Anche per chi poi va via dai Summertime. E spesso abbiamo dei rientri, spesso abbiamo persone che continuano a seguirci per anni, insomma so che fa male doversi allontanare, ma a volte in momenti di vita, chi si trasferisce, il lavoro, chi si sposa, capita che debbano uscire, e so che poi la fatica di restarne fuori è molto grande. Ma c'è chi è rientrato? Mamma mia, abbiamo dei rientri clamorosi. Elena, ti ringraziamo allora noi intanto. Grazie, grazie a voi. Grazie della partecipazione, grazie della disponibilità ovviamente. Insomma. Niente, grazie, ci vedremo, un piacere. Ci vedremo al prossimo concerto allora io e te. Certo, sì, ci sarò. Ciao. Ciao Elena, grazie, benissimo. Ciao, allora, ciao. Sì, è un discorso molto positivo, questo gruppo aperto, che è fondamentale nella storia di Summertime. Gruppo aperto, cioè gente che viene, che si diverte, poi per motivi diversi se ne va, poi ritorna, e tu conduci questa band, la chiamiamo band, noi siamo rockettari, la chiamiamo band, conduci questa band, sempre in evoluzione, non si ferma mai, quello è importante secondo me. Non c'è un arresto, si va sempre avanti, che bisogna sperimentare, bisogna trovare sempre nuovi stimoli. Perché il gospel sì, ma il gospel è una base. E poi la base in 20 anni, che sviluppi ha avuto? Tanti sviluppi. Assolutamente sì, per questo che ti dico che il nome che abbiamo dato, Treno dell'Energia, è quello giusto. È proprio perché da un treno si sale e si scende, ma fondamentalmente ne hai sempre bisogno. E quindi credo che arrivare a gennaio, dopo aver fatto la tournée invernale, e chiedersi e domandarsi, questo è quello che mi capita regolarmente, io mi devo domandare se ho ancora voglia di guidare questo gruppo, e se ne ho voglia devo chiedermi se ho degli stimoli da dare, perché comunque chi sta con me, chi sta con noi, chi porta avanti questo progetto ha come primo obiettivo quello di creare qualcosa di nuovo, di avere lo stimolo, quindi per poter anche sudare, un po' faticare, perché comunque al nostro livello non tutto viene così automatico e spontaneo, devi anche un po' lavorarci. Quindi ci chiediamo, a partire da me, se ne abbiamo ancora voglia, e da 20 anni a questa parte la risposta è sempre sì, e questa è la più grande soddisfazione. Come a dire, la risposta nel vento, questa risposta blow in the wind. È blow in the wind. Sembra una cosa buttata Bobina. Così, ma non è vero secondo me. C'è qualcosa, musicalmente parlando, quando ti chiedono cosa tu fai parte di Summertime, è importante questo, perché in Italia non c'è l'idea che uno è un musicista. Un musicista è un lavoro, è un grande lavoro. In Italia il musicista no, cosa fai? Il musicista no. Il musicista è un lavoro, chiaramente. Summertime è un discorso a parte, però il musicista è un lavoro a tutti gli effetti. Certo. E non è solo professionale, cioè non solo professionista, può essere anche professionale. In questo senso. Ahimè, dimmi. Siamo arrivati alla fine. Sì, facciamo un altro pezzo, poi sì. Finiamo. Sì, volentieri. Beh, allora facciamo ascoltare quello che rappresenta una delle tante piccole evoluzioni. A un certo punto abbiamo detto, ma oltre a fare pop... Vediamo se di questo genere andiamo a prendere anche delle cose famosissime, ecco. E vediamo se riusciamo a reinterpretarle senza perdere l'anima che c'è. Qui c'è un mio caro amico che canta comunque, eh? Lo so. È venuto anche qui a trovarci una lo sera. Lo sai che Marco Mengato ha esordito come solista direttamente in Vaticano? Ecco. Lui è entrato nel coro, non aveva mai cantato da solista, e ha detto: senti, sai cosa facciamo? Tu esordisci direttamente in Vaticano. E quindi lui ha cantato Long Train Running all'epoca, no, ha cantato, aiutatemi voi, Freedom, Freedom. Musica francese, sì, noto biografo dei Summertime. Freedom, bellissimo Freedom, ed ha esordito così. E poi invece in questo concerto al Taliercio ci ha accompagnato con la sua voce, che era proprio adatta. Ti svelo un segreto su Marco, lo vuoi sapere? Sì. Il suo sogno qual è? È quello di cantare con una mia amica, che Maurizio sa benissimo chi è venuta qui, ha suonato una sera, ha fatto uno spettacolo, un concerto eccezionale, si chiama, lo sai? Maurizio, come si chiama? Sì, lo voglio si chiama Susanna Parigi, vuole cantare una canzone con Susanna Parigi. Splendida interprete. Ci ascoltiamo la canzone intanto. Sì. Ok. Puoi provare pure il basso, però proveremo in diretta. Abbiamo finito, Walt, questa cavalcata chiaramente riduttiva. La vostra storia è molto lunga, 20 anni, però un'oretta circa, è passata proprio un'ora adesso. Volata, eh? È volata, abbiamo parlato delle contaminazioni, ma solo dello sviluppo della band. È quello importante, dal gospel a tante altre cose. Sì, artisticamente parlando e anche umanamente parlando. È esattamente questo. Un'esperienza umana e artistica che è andata avanti un po' di pari passo. E adesso siamo veramente a una nuova pagina e la presenteremo, spero, questo Natale con questa grandissima festa, cui vi invito già ora. Non vi posso dire ancora la data, è ancora un po' incerta, però saremo sicuramente al Palasport nuovo di Padova, al Pala Fabris. E vi aspettiamo, perché non sarà davvero solo un concerto, ma sarà una festa, secondo me, anche un po' presuntuosamente, se posso dirlo, mi assumo un po' la responsabilità di quello che dico, ma vorrei che fosse anche un po' una festa della città, perché San Martino sono un nome comunque che rappresenta Padova, così come lo rappresentano tanti altri. Beh, 2500 persone il 19 dicembre, insomma, è una dimostrazione che Padova comunque c'è. Sì, Padova ci ha sempre accompagnati, e quindi per questo vogliamo festeggiare con Padova, con Etienne, con Vittorio Matteucci, con tutte le grandi voci, le grandi personalità della musica di Padova, con cui vogliamo unirci e fare una festa della musica. Il nostro compleanno diventa una festa della musica e speriamo che Padova ci accompagni, che sia tutta lì. Noi ci crediamo, ci speriamo, e l'invito parte da adesso. Sarà una grande cavalcata nella preparazione di uno show che speriamo che possa restare memorabile per tutti. Benissimo, grazie quindi a Walter Ferulli, l'anima, possiamo dire, di San Martino, qui presente stasera. Grazie, una delle 50. Una delle 50 anime dei anime, San Martino. Sì. Con un gruppo che da Padova ha passato i confini della provincia di Padova e è andata oltre, ben oltre, questo è molto positivo. Fra pochi minuti Luca Francioso Trio, i Sei Mani, c'è sempre un collegamento, l'abbiamo detto prima. A proposito di grandi artisti. Padova. Esattamente. Grazie sempre ad Agostino. Agostino sta in regia fino a mezzanotte. Sì, fino a mezzanotte siamo e qui. Poi Agostino, ti posso tenere compagnia? Certo, che vado a fare a casa adesso? Puntai qua, poi ci facciamo una birra insieme, se vuoi. Perfetto. Adesso sentiamo qualche pezzo musicale e poi partiamo con Luca Francioso. Posso chiudere? Sì, vai. Maurizio, sai cosa ha detto Walter quando ho presentato questa canzone di qui a Padova? Si è messo la tunica, la cantante si è messa la tunica dorata. Lui è venuto fuori, Walter, con la sua simpatia, ha detto: adesso ci ascoltiamo una canzone molto bella, molto particolare, che va ascoltata con la tunica dorata. Questa canzone si intitola Forever Monty. Grazie Walter. Grazie a tutti voi. Grazie veramente di cuore. Ciao. A presto. Ciao. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Character.